Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Rieccoci, buon venerdì a tutti, 16:34 minuti. Luca Tremolada, Luca Dello Iacovo, buongiorno. Allora, oggi puntata interessante, daremo qualche suggerimento a Renato Brunetta, proprio così, ieri dichiarazione di apertura verso l'open government, verso la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei dati online, uno dei nostri temi forti questo. Sì, entro 6 mesi appunto è stata lanciata l'idea di aprire una piattaforma per poter utilizzare dei dati della pubblica amministrazione, e questa è una cosa, è un'idea che stiamo seguendo da tempo, che l'abbiamo avuta prima noi, diciamolo, l'abbiamo avuta prima noi, per cui parleremo con un operatore tecnologico italiano, sorpresa lo diciamo dopo chi è, che lavora sul web semantico, sull'organizzazione dei dati, in questo senso suggerimenti, e poi andiamo subito poi a Trento al Festival dell'Economia, dove abbiamo in collegamento Michele Boldrin, docente di economia alla Washington University, parleremo di brevetti, di proprietà intellettuale, insomma i nostri temi, ma prima le news. Raddoppia la velocità di Facebook. Le pagine del social network vengono aggiornate nella metà del tempo. Per 6 mesi gli ingegneri hanno lavorato sull'efficienza del software, ma continuano le polemiche sulla privacy. Il fondatore del social network, Mark Zuckerberg, ha chiesto scusa agli utenti. È disponibile anche dall'Italia la gestione semplificata dei dati personali. Secondo Facebook, però, la metà degli iscritti non ha mai cambiato le impostazioni per la privacy. Il sistema operativo di Google arriverà in autunno. Il cuore tecnologico sarà il browser Chrome, lanciato dall'azienda di Mountain View 2 anni fa. È una tecnologia a codice aperto. Gli sviluppatori software potranno intervenire per modificarla. L'obiettivo è di sfidare l'egemonia di Windows nel mondo dell'informatica. Ricaricare il cellulare con la bicicletta. Il gigante della telefonia mobile Nokia ha lanciato un kit. Include un piccolo generatore elettrico da applicare alle ruote. Le pedalate alimentano la batteria dei telefoni portatili. I ciclisti devono raggiungere almeno una velocità di 5 km orari e non superare i 50. Il costo dell'attrezzatura è di 15 euro. Il gigante finlandese delle telecomunicazioni punta ai mercati dove l'elettricità non è facilmente accessibile. Eccoci tornati in studio, 16:36, come ho detto all'inizio noi siamo in collegamento con Trento, con in particolare con Michele Boldrin, buongiorno. Buongiorno. Lei tra meno di 20 minuti, mezz'ora, terrà una conferenza dal titolo "I brevetti favoriscono l'innovazione? Punto interrogativo", e in un certo senso mette il dito su uno dei grandi problemi di questi ultimi 5 anni. Come sappiamo, internet viene vista anche come una grandissima macchina fotocopiatrice, la difesa del copyright, dei diritti di proprietà è stata messa in pericolo da internet, però che cosa abbiamo capito? È anche una miniera di informazioni, e tutte queste informazioni poi aiutano lo sviluppo e l'accelerazione della ricerca, perché poi se i dati si riescono anche a condividere tra i ricercatori, questo aiuta lo sviluppo dell'innovazione, perché facilita le comunicazioni e quindi tra i ricercatori ci si può tenere aggiornati e poi ognuno può seguire il suo progetto più velocemente. Quindi anni di cambiamenti, qui se l'industria di discografica, l'industria editoriale è in crisi proprio per la facilità con cui si fa il copia e incolla, allo stesso tempo libri come Punk e Capitalism hanno dimostrato come di fatto l'innovazione passa anche da lì. Michele Boldrin. Allora partiamo dalla domanda. Tantissima carne al fuoco. Sì. E come hai detto, sì, fra 25 minuti devo proprio iniziare la conferenza sull'argomento. Allora andiamo per ordine. Questo libro che menziona Against Intellectual Monopoly e molti altri lavori più accademici li ho scritti con David Levine, che è pure oggi collega mio a Wash U, prima eravamo in due posti diversi, siamo uniti lì. L'argomento di fondo è un po' quello che avete detto voi, la creatività, l'innovazione sia tecnologica che di contenuto è un processo cumulativo e che usa come inputs, come fattori di produzione, come elementi di partenza le informazioni, le innovazioni precedenti e ne crea di nuove. Ciò che brevetti e copyright fanno è restringere l'accesso a ciò che è stato fatto prima, monopolizzarlo, escludere altri e quindi ha la potenzialità per ridurre l'innovazione futura. Ora, questo è abbastanza semplice teoricamente, quello che noi abbiamo fatto, che è forse un po' più originale, è passare molti anni a guardare concretamente i fatti, la storia e i dati, e la storia e i dati, la mole è notevole, e non solo lavoro nostro, lavoro di decine di altri ricercatori, che in parte abbiamo riassunto, mostra a nostro avviso in maniera inequivocabile che rafforzarsi dei brevetti, rafforzarsi di sistemi di copyright non favorisce l'innovazione futura, ma la restringe, la danneggia, e questo si applica ovviamente in maniera particolare in un mondo dove c'è l'internet, non da 5 anni ma da 15, e in cui esattamente la possibilità di diffondere e creare nuove informazioni e analisi da elementi precedenti, ovviamente magnifica, l'espressione in inglese, scusa, ingrandita. C'è qualche settore in cui è più forte questo fenomeno, per cui l'innovazione è accelerata dalla possibilità di accedere alle informazioni in modo libero? Purtroppo io sto camminando verso la cosa e sono a un cellulare. No, la domanda di Luca Dello Iacovo era: dov'è che è più evidente questo fenomeno? Nel farmaceutico, nell'industria? In quale industria si vede di più? Il danno? Tu vuoi dire l'effetto danno? Beh, sì. Mi sembra plateale. Faccio un esempio, invece. Un esempio che mi ha colpito profondamente è stato un danno sociale mostruoso, specialmente alle persone, ai giovani, diciamo così, meno abbienti, meno fortunati. La maniera attraverso cui i detentori di copyright, gli editori a livello mondiale, europei in particolare, hanno bloccato un progetto favoloso che probabilmente conoscete, che si chiamava Google Books o Google Print. Sì. Ecco, non lo sto a descrivere, assumo che gli ascoltatori lo conoscano. Le opposizioni legali che a questo progetto hanno fatto editori e autori hanno impedito di introdurre uno strumento tecnologico che avrebbe permesso l'accesso alle persone meno fortunate, cioè le persone che non possono usare grandi biblioteche, che non hanno già grandi conoscenze, quelli che non hanno studiato e non hanno i libri sotto mano, di accedere praticamente a milioni di libri e alla loro informazione tutte le volte che avessero bisogno di apprendere qualcosa e poi di comprarseli quei libri. Ecco, quindi, però è anche vero che tanti libri sono accessibili. È un danno enorme. Sì, tanti libri sono anche accessibili comunque da internet in pubblico dominio, i grandi classici sono comunque accessibili. Sì, ma solo quelli, capisci? Quello è un problema. La quantità di cose accessibili in pubblico dominio è estremamente bassa. Oggi l'estensione del copyright è praticamente eterna. Noi abbiamo cose che sono vecchie di un secolo che non si possono leggere, cioè che non si possono accedere in modo libero. Ecco, Boldrin, non c'è nessun vantaggio lì, bisogna anche capire che da tutto questo gli autori ci guadagnano o niente o pochissimo. Ecco, perché Boldrin, mi faccia fare l'avvocato del diavolo, però è evidente che chi detiene oggi, anche in un regime semi-monopolistico, i brevetti, i dati, dice sì, ho capito, ma io come faccio a mangiare, come faccio a investire in ricerca se togliete i brevetti, se mi togliete la possibilità di lucrare sulla proprietà intellettuali? Ma tu chi sei, il produttore del libro? È palese dai dati che chi scrive libri, nella grandissima maggioranza, enorme, stragrande maggioranza, non li scrive con intento di lucro ma con intento di fama, cioè il denaro non ti arriva tanto dal libro che scrivi direttamente ma indirettamente, perché ti rende noto e fai conferenze, ottieni posti di lavoro migliori, penso al lavoro mio, al lavoro accademico in generale, noi tutti la ricerca scientifica che pubblichiamo la pubblichiamo gratis. Però per gli scrittori il nostro beneficio viene dal fatto che siccome se scrivo 3 articoli buoni divento famoso, la mia università mi aumenta lo stipendio, un'altra università mi fa un'offerta con un stipendio migliore, qualcuno mi invita a fare conferenze e mi paga. Questo vale per me, quindi, come vale per i musicisti. La logica è che lo scrittore, così come il musicista, così come colui che insomma produce un capitale intellettuale, deve lavorare sulla sua fama, cioè deve lavorare sulle conferenze, deve lavorare su un altro modo per remunerare il suo genio, diciamo. Questo è lo strumento principale, ma però bisogna anche capire che se tu eliminassi il copyright oggi come oggi, la stragrande maggioranza dei libri verrebbe più o meno prodotta nella stessa maniera, venduta probabilmente a un prezzo più basso, e nessuno perderebbe tempo a copiarlo. Perché? Perché tu capisci che per copiare un libro prodotto da un altro c'è anche un investimento di mezzo, non è che sia proprio una cosa gratis che fai al volo. Non solo, lo fai, conviene farlo solo se quel libro è un successo. E il fatto che il libro sia un successo, perché comunque ha venduto 20, 30, 40, magari 100.000 copie, a quel punto l'autore, ben contento di aver venduto 100.000 copie, si è messo probabilmente già $200.000 in tasca, è perfettamente contento, perché il tipico scrittore di libri, per non parlare di accademici come me, non si sogna nemmeno quando scrive un libro di guadagnare più di $10.000. Se ne guadagno 100, sono contento come una Pasqua. Capisci? E questo è il punto. E per quindi, quelli che però vivono scrivendo libri come gli autori, la gente continuerebbe anche a guadagnare. Ecco, però per l'autore professionista, cioè per il musicista che lo vuol fare, vuol campare solo delle sue canzoni, ah, lo farebbe esattamente come lo fanno. Il musicista professionista guadagna facendo i concerti. Se tu guardi come si sta evolvendo oggi il mercato della musica mondiale, noterai che gli autori vendono, per effetto delle scariche di internet, vendono meno dischi di prima, però guadagnano ancora più soldi di prima facendo che cosa? Concerti nel vivo, vendendo gadget, magliette, cose di questo tipo. Se tu guardi i dati ti renderai conto che c'è, dopo Napster, dopo la diffusione di queste cose per internet, c'è più produzione di musica e più guadagni, solo che avvengono in maniere diverse e tra l'altro con un grande beneficio, perché c'è molta più musica al vivo, ci sono molti più concerti. Va bene, Boldrin. Vale anche per l'autore di musica. Noi dobbiamo, la ringrazio, la lascio al convegno. Noi andremo avanti un'altra oretta a parlare di questo tema, ma adesso dobbiamo dare la linea al traffico. Buon convegno. Grazie a voi. Nova Lab 24. Ogni anno le informazioni su internet aumentano del 60%. È un oceano digitale ricco di idee, opinioni, formule, statistiche. E può diventare un labirinto. Alcune società di pionieri sono impegnate nell'analisi e nell'organizzazione dei dati sul web, come l'italiana Expert System. A fondarla sono stati tre amici in un garage. È un'avventura iniziata nel 1989 a Modena. Adesso la loro azienda ha 100 dipendenti con un'età media di 34 anni. Ha sviluppato tecnologie per la ricerca semantica impiegate in diversi settori: pubblica amministrazione, telecomunicazioni, informazione, automotive. Ogni anno investe il 30% delle risorse in ricerca e sviluppo. E diamo il benvenuto a Luca Scagliarini di Expert System, buongiorno. Buonasera. Buonasera, allora, insomma, la grande scommessa è di lavorare su una grande mole di dati e di poter trovarne il senso. Esatto, la nostra scelta tecnologica sin dall'inizio è stata quella di andare a cercare di comprendere il significato dei testi e non solo, diciamo, la presenza o meno di sequenze di caratteri o keyword all'interno dei documenti. Questo è diventato particolarmente importante negli ultimi anni, quando l'ammontare di informazioni a cui accediamo a livello individuale, ma anche a livello e soprattutto a livello aziendale, è aumentata in modo smisurato. E quindi voi ordinate queste informazioni e le rendete più facilmente fruibili per chi poi le va a leggere. È qualcosa che va oltre Google? Sì, diciamo che il concetto è che dando ordine, dando significato alle parole, l'esperienza della ricerca può diventare molto più efficace. Ecco, ma quando è che arriveremo al grande sogno? Cioè, nel senso, noi ormai siamo abituati a pensare a internet come una grande database, inseriamo le parole, le nostre ricerche poi funzionano, addirittura c'è chi pensa che stiamo imparando a pensare attraverso a parole chiave. Però insomma il grande sogno è un altro, cioè la tecnologia dovrebbe consentirmi, che so, di prendere un device, qualsiasi, un telefonino, collegarmi a internet, dirgli io voglio andare a mangiare la miglior pasta asciutta col tonno a Roma, e tu a quel punto, andando a cercare tutte le informazioni, tutti i dati che ci sono in rete, mi sai non solo dirmi dove si mangia la migliore pasta asciutta col tonno a Roma, ma anche mi prenoti un tavolo per due. Qual è che arriveremo a questo? Che potenzialmente è possibile. Esatto, non siamo particolarmente lontani se consideriamo diciamo di procedere per aree verticali, ovvero il momento in cui si potrà scegliere un ristorante e anche effettuare la prenotazione non lo vedo come particolarmente lontano. Ci sono già dei tentativi e anche noi con la nostra tecnologia abilitiamo lo sviluppo di applicazioni di questo tipo. Chiaramente quando si parla poi del dominio di internet globale, quindi con informazioni appartenenti a diversi domini e quindi una sovrapposizione di dati molto diversi, questo ovviamente diventa una cosa che non potrà succedere in tempi brevissimi. Però, ripeto, non siamo lontani al concetto di avere dei dati che riescono a essere diciamo gestiti in maniera molto molto lineare anche da utenti che non hanno particolari skill tecnici. Ma basterà schiacciare un bottone? Basterà formulare le domande, sformulare le richieste come siamo abituati quando parliamo con una persona. Da questo punto di vista la nostra, diciamo, il nostro lavaggio del cervello a lavorare per keyword diventa quasi una barriera. Ci siamo abituati a considerare il fatto che non si può fare una domanda ma bisogna inserire una sequenza di keyword. E quindi questa abitudine, diciamo, è diventata per assurdo una barriera. Cos'è che vedremo nel breve periodo? Cioè, nel lungo periodo la promessa quindi è quella di recuperare quello che si chiama il linguaggio naturale, cioè porre delle domande a una tecnologia e la tecnologia fornisce delle risposte. Questo però è mi sembra un obiettivo di lungo termine. Nel breve termine? Dunque, diciamo un obiettivo di lungo termine, ripeto, quando si parla di informazioni molto diverse, quando si parla di informazioni diciamo specifiche tipo imparare a utilizzare degli strumenti piuttosto che appunto il discorso delle prenotazioni, non siamo molto lontani, ci sono già anche dei primi tentativi di applicazioni che vanno in questa direzione. Diciamo che il primo passo è quello che sta già avvenendo con l'arricchire le informazioni presenti su siti con informazioni più comprensibili che possono essere trattate in modo automatico. Tra l'altro penso che questo sia una ottima opportunità per i fornitori di contenuti che adesso stanno un po' soffrendo, soprattutto i giornali tradizionali, per trovare nuove fonti di revenue. Ecco, Scagliarini, noi all'inizio della trasmissione abbiamo detto oggi daremo dei suggerimenti a Brunetta, se è vero che il tentativo, quantomeno la volontà, è quella di portare tutti i dati della pubblica amministrazione online, questo a voi rende felici? Assolutamente sì, perché in pratica diciamo dietro queste iniziative ci sono iniziative di tipo politico, nel senso di rendere più trasparente la pubblica amministrazione, ma al tempo stesso la possibilità di avere dati disponibili a chi sviluppa delle applicazioni software pone, diciamo, avanza molto il limite delle cose che si possono fare, ovvero io prevedo che, come è già successo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, una volta che i dati sono disponibili ci saranno delle applicazioni intelligenti per rendere facilmente accessibili e comprensibili questi dati, e questo sarebbe particolarmente di valore, penso. Per esempio? Ma per esempio ci sono, diciamo, delle applicazioni, se cito alcuni esempi che ho visto sul mercato americano, incrociando i dati che parlavano per esempio di delle calorie e delle tipologie di cibo che venivano mangiate in tutte le varie aree degli Stati Uniti, incrociando i dati con i dati medici, medi del peso delle persone e così via, si possono identificare aree di intervento molto precise. Bene, Scagliarini, io la ringrazio, speriamo che arrivino esempi sempre più in questo senso. Noi siamo felici di, insomma, che dello Jacopo entusiasta, e dello Jacopo tornerà lunedì alle 16:30, per cui insomma ritroviamo lui, ritrovate me, ritrovate Nova Lab 24 a lunedì. Nova Lab 24. Nova Lab 24.